piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull'Autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Tutto naturalmente coronavirus permettendo. Io con disprezzo per ogni timidezza possibile, oggi sono venuto a Milano con tutti e due i miei figli, con Tommy e con Filippo, e questa trasmissione la sto facendo da Milano. Perché? Perché oggi stiamo terminando le riprese del nostro film che Sky metterà in onda a breve, che racconta tutta la storia di quello che anche fa parte della vostra esperienza di ascoltatori radiofonici. Continua la grande ricerca degli oggetti straordinari, ne stanno arrivando di bellissimi, li stiamo catalogando, li stiamo classificando, molti stanno già entrando nell'asta dei cervelli ribelli, e quindi mi piace aver portato a termine questo esperimento di oggetti che passano attraverso la radio. Se qualcuno volesse avere ancora qualche emozione in più, qualche informazione in più su quello che stiamo facendo in questi giorni, vi faccio ascoltare una cosa. Mi sembra fuori del tempo e fantasticamente reale comprare questa maschera da dottore della peste. E ancora più assurdo mi sembra farla indossare a Tommy. Chi sei? Io zio Moccio. Chi zio sei? Moccio. E come fa un mostro? Dov'è il mostro? Che mostro sei? Ah. Oddio! Questo è il podcast, già la terza puntata è scaricabile e ascoltabile dal sito di Radio 24, In viaggio con Tommy. Io sto raccontando il backstage di tutto il viaggio che facciamo con i miei figli, con la troupe di Sky, per girare questo film che racconterà un po' la nostra ricerca del bello, il nostro diritto come cervelli ribelli di poter usufruire anche della bellezza, anche dell'arte. In un momento così cupo, così triste, sono arrivato a Milano, che eravamo solo tre passeggeri nel treno che ci portava a Milano. L'albergo dove vado normalmente, che c'è un pullulare di gente, era vuoto, era deserto. Le strade sembrano strade di una città che ha attraversato un disastro post-atomico. Io spero che finisca questo momento di grande cupezza e di necessaria attenzione alle norme igieniche fondamentali per il coronavirus. E mi piace proprio lanciare la sfida che noi proprio in questo momento in cui tutti pensano e tremano e hanno problemi per la loro salute, guardano con sospetto gli altri, non ci si può toccare, non ci si può abbracciare, non ci si può vedere. Noi continuiamo il nostro giro alla ricerca del bello, delle cose futili, delle cose folli, delle cose che ci danno un senso di appartenenza a una dimensione che non è sempre quella del reale. Io volevo darvi già subito qualche indicazione, come sempre vi ricordo, potete mandare le foto dei vostri oggetti al sito asta.cervelliribelli.it. Nel sito di Radio 24 vedrete le foto e gli oggetti già mandati. Questi oggetti devono avere la caratteristica di avere in sé qualcosa legato alla ribellione, alla stranezza, alla singolarità. Vi faccio ascoltare subito immediatamente qualche testimonianza, qualche prova degli ascoltatori che già sono pronti a descrivere i loro oggetti e a passarli al vaglio degli esperti della casa d'asta, che poi li metterà probabilmente all'asta se questo meriteranno. Ricordo il numero 800240024, chiamatemi in questa diretta se avete immediatamente qualcosa per casa che pensate possa entrare in questo tipo di esperienza, non so come chiamarla. È una radio che va in diretta, che parla di un podcast, che è il backstage di un film, che prelude a un'asta di oggetti. E subito voglio sentire Jacopo Briani. Jacopo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Jacopo Briani è un ricercatore di oggetti eccezionali, è un gallerista, esperto in storia naturale, abbiamo già sentito, è uno degli esperti della Casa d'Aste Cambi che valuta i nostri oggetti. In particolare ha una singolarità che ci è stata proposta, vorrei che la raccontasse. La polvere delle ossa di Dante Alighieri. Ma è una storia incredibile, veramente. Ci è arrivata un'email sul sito dedicato alla ricerca di oggetti. Una persona, tra l'altro, che ci contatta in inglese, quindi ritengo che sia straniero, non ha firmato la mail, ha soltanto lasciato il suo indirizzo, e ci dice se possiamo essere interessati a queste reliquie di Dante Alighieri, che sono state trovate, a suo dire, 30 anni fa, in una stalla in Sicilia. Noi cioè, come diciamo, le ceneri del padre della letteratura italiana stanno dentro una stalla, com'è finita? Allora, è una storia che in effetti ha dei riscontri, nel senso che abbiamo scoperto, facendo un po' di ricerche, che uno scultore di Ravenna, tale Enrico Pazzi, verso il 1875, nell'apertura del sepolcro di Dante, ha in effetti prelevato, autorizzato dalle autorità. Cioè si è fregato un po' di polvere delle ossa di Dante. Esattamente, e ne ha fatto 6 piccoli contenitori, che ha regalato uno alla città di Firenze, che poi c'è stata una storia di ritrovamento, e altri 5 ai notabili dell'epoca. Uno a questo barone Giuseppe Natoli, che era un personaggio del Regno d'Italia conosciuto, che in effetti è siciliano, e che in effetti potrebbe essere l'origine. Ma è già arrivata la bustina con la polvere di Dante? No, abbiamo soltanto delle foto per ora, stiamo provando a ricontattare questa persona e per ora non abbiamo avuto riscontro. Va bene, se ci ascolta l'ascoltatore, la persona che ha mandato questo avviso, sappia che è gradito e sarebbe interessante per la nostra asta avere un reperto della polvere delle ossa di Dante, lo metteremo all'asta. Ne abbiamo già di cose strane, abbiamo già un pezzetto di Italo Balbo ottenuto dall'esplosione dell'aereo, da un glorioso artificiere che l'ha passato di mano in mano nella sua famiglia, l'abbiamo sotto formalina. Avremo anche la polvere delle ossa di Dante. Passiamo a un'ascoltatrice, Monica Guarini Matteucci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Lei quale oggetto ci propone? Io ho già la foto davanti, la sto vedendo, è un tavolo con una scacchiera al centro. Esatto. Apparentemente non ha nessuna singolarità, è un tavolino rotondo con una scacchiera, diciamo, intarsiata con legni di diverso colore. Esatto, esattamente. Sulla scacchiera, adesso non so quanto siano risultati nitide le foto, ci sono i segni dei bicchieri che sono stati appoggiati su questo tavolino. Sì, li vedo, c'è dei cerchi che sono probabilmente l'impronta dei bicchieri che giocando a scacchi bevevano pure. Sì, era il tavolino su cui in pratica veniva bevuto il caffè o il liquore dopo cena. Questo è un oggetto che io ho ereditato da mio nonno, che la mia famiglia ha origini nobiliari. Mio nonno aveva questo salottino, sì, con vari mobili che ha lasciato a me. E quando ero ragazzina ci raccontava le storie, insomma, che riguardavano la famiglia. Qual è la singolarità di questo tavolino, a parte di essere di suo nonno, che è rispettabile, esatto, ma non c'è nulla di particolarmente singolare? Esatto, la singolarità è che mio nonno era del 1908, sua nonna raccontava a mio nonno che in questo salottino aveva cenato Garibaldi ed era stato giudicato dalla nonna di mio nonno un porco, perché aveva mangiato il pollo con le mani. Quindi questa era la cosa che mio nonno aveva sempre raccontato. Quindi presumibilmente in questo tavolino era stato preso poi il caffè o il liquore o quello che... Quindi insomma, c'è una testimonianza orale di sua nonna che Garibaldi ha pranzato su questo tavolino, esatto, rotondo. Esattamente, quello c'è in realtà nella biografia di Garibaldi, c'è riportata una parentesi forlivese, perché la mia famiglia, la villa in cui era presente questo salottino, è a Forlì. Il collegamento io ipotizzo che sia stato che il nonno di mio nonno era un senatore del regno, quindi probabilmente c'era stata una conoscenza legata all'attività politica, ecco, questo potrebbe essere il collegamento, però ecco, è una tradizione, cioè il fatto che Garibaldi sia nato lì è un fatto certo, il collegamento non so esattamente invece quale sia stato. Dunque lei c'è questa voce di famiglia, ma è in qualche maniera rinforzata da qualche cosa di scritto, cioè c'è qualche lettera, documento, questo è molto importante. No. Infatti al momento no, si può tentare di fare in casa, siccome dopo la morte di mio nonno le cose sono state divise, si può tentare di fare una ricerca. Cioè dovrebbe chiamare tutti i parenti, comunque questo è un tavolino, esatto, in cui c'è questa diceria, tradizione familiare, per cui sua bisnonna ha cenato con Garibaldi. Il sì, sarebbe in pratica la nonna di mio nonno, quindi risulterebbe la trisnonna. A questo punto, e il trisnonno era presente o diciamo era un incontro clandestino? No, non voglio entrare, entrare nelle cose di famiglia, ma è importante dal punto di vista documentale. No, era presente. Presente. Era una cena ufficiale in cui lui avrebbe appunto mangiato questo pollo con le mani, cosa per cui sarebbe stato giudicato un cafone e la mia trisnonna avrebbe detto che non lo voleva più in casa. Ma se lo sa, c'è una vexata questio sul pollo con le mani. Qualcuno dice che in realtà va mangiato con le mani. Esatto. La regina d'Inghilterra lo mangia con le mani perché dice il pollo va mangiato con le mani. Quindi può essere che Garibaldi, nel suo essere persona cosmopolita, aveva girato molto, sapeva che il pollo si mangiasse con le mani. Il Galateo prevedeva delle eccezioni, esatto, per il pollo. Per esatto, il pollo, esatto. Garibaldi aveva ragione rispetto a quello che diceva sua nonna. Va bene. Anche secondo me. Grazie, passiamo subito e facciamo ascoltare un contributo audio, e facciamo sentire subito qual è l'oggetto che ce ne è proposto adesso. Ho chiesto al sole un po' di luce per questo amore, e di brutta luce ho detto al sole. Chi è questa persona che canta? Gli ascoltatori appassionati di Radio 24 della Zanzara l'hanno già ascoltato, ma ce lo facciamo dire direttamente alla voce della persona che ci propone per l'asta il disco originale che contiene questo ineguagliabile brano. Mirko Dettori, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Ma Mirko Dettori, signor Mircaccio, nostra conoscenza, è un musicista, cantante, artista, si occupa di varie questioni legate all'intrattenimento serale, in particolare a un locale a Roma, vero? Sì. Ma in questo caso però dobbiamo parlare assolutamente di questo Cimelio. Ecco, chi è che canta? Canta Donato. In realtà famoso Donato, che poi è Umberto Bossi, diciamo. Questa è una canzone di Umberto Bossi quando cantava, in che anni erano più o meno? Gli anni del 62? Forse 1961-62. Ecco, Umberto Bossi tentò la carriera di cantante, cantava con lo pseudonimo di Donato. Questa canzone si chiama Ebro perché era ubriaco, per questo. Ma non lo so, diciamo che il lato B si chiama sconforto, quindi probabilmente sì, era ubriaco, poi dopo gli è passata. Gli ha presa la sbornia triste. Ecco, questo tu hai l'originale, diciamo, cos'è, un 45 giri? È un 45 giri, sì, me lo sono ritrovato proprio nel cassetto dei ricordi dei genitori, dimenticato proprio come tu stai cercando. L'ho sempre avuto, mia madre l'ha ricevuto quando era ragazza, poiché abitava a Varese. La foto, l'etichetta è Caruso. Caruso, sì. Sì, ha diciamo, sì, una confezione come erano i 45 giri, color blu all'interno, il cartonato, e niente, sì, è 45 giri di Bossi. Tu come l'hai avuto, Mirko? Ecco, io ce l'avevo nel cassetto, mia madre l'ha ricevuto in omaggio negli anni 60, proprio in quell'anno, da un collega, poiché era il bootleg, diciamo, di un amico, ed è rimasto lì nel cassetto. Ma al tempo Bossi non aveva nessuna notorietà, era un disco, no, così. Certo, era il disco di un amico, era dell'amico di un amico. Senti cos'è. Senti, questo disco tu puoi metterlo all'asta, ha una sua valutazione, hai qualche idea di quanto potrebbe valere oggi, ha un mercato? Guarda, io ho tentato, diciamo, giusto per renderlo noto, di venderlo a euro 250.000, sì, circa 10 anni fa. Ancora ridono, certo. Sì, ma anch'io ridevo. Io devo dire che la prima volta che l'ho messo sul mercatino musicale, che è un sito, avevo scritto 100.000. Poco dopo ho detto, vabbè, che me frega, 150. Poi mi sono svegliato il giorno dopo e ho cambiato l'uno in due, è diventato 250. Dopo un po' di tempo, qualche sito di nerd del disco, di appassionati di vinile, mi aveva recensito come pazzo visionario, perché non poteva essere coerente con il mercato del disco una cifra di questo genere. Ecco, però hai una, diciamo, una valutazione più recente pure. Sì, perché nel corso degli anni ho ricevuto invece un'offerta di 5.000 euro da parte poi di Vittorio Sgarbi. Cioè Sgarbi era disposto a darti 5.000 euro per questo disco? Sgarbi era disposto a dare 5.000 euro per questo disco. Quindi la base d'asta notizia, potrebbe essere questa. Certa questa, notizia. La base d'asta potrebbe essere 5.000 euro. Se li dava Sgarbi, 5.000 euro li vale sicuramente, figuriamoci. Caspita, se li devo sgarbi, sì, la valutazione sua. Almeno, allora, diciamo, questo disco potrebbe avere un valore, adesso gli esperti lo valuteranno, ma è la confezione originale del disco di Bossi, di cui il brano girava in rete, ma il disco non c'aveva nessuno. Una base d'asta potrebbe essere quella di 5.000 euro. Grazie Mirko Dettori, ci fermiamo un istante. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In Viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. Mi rendo conto che c'è poco appeal parlare di arte, di astrazione, di follia, di sensazioni in un momento in cui la mucchina è al centro dell'immaginario generale, delle ambizioni di tutti. La vedo di fronte a me, la gentile ragazza che mi mette in onda è cosparsa di mucchina e si cosparge di mucchina man mano che alza il dosatore per far mandare la mia voce. La mia voce esce già disinfettata, esce già priva di bacilli e voi avete le orecchie preservate da questa attenzione. Detto questo, ricordo che con divertimento, fatica, senso dell'intrepidezza, io con Tommy, che poi mio figlio, tengo molto a mio figlio, ma anche l'altro figlio Filippo, stiamo girando l'Italia e oggi siamo a Milano. A Milano, con le dovute attenzioni, le dovute cautele, non è che è una città off limits. La gente dice: sei andato a Milano, non andare. Che mi scrivono: attenzione, perché vai a Milano? Non puoi farne a meno. No, oggi devo lavorare a Milano e sono a Milano. Domani tornerò a Roma e pazienza. Dobbiamo avere anche un margine di fatalismo. Una volta messa a punto tutte le possibili precauzioni, dobbiamo continuare a vivere. Stiamo oggi appunto raccontando il nostro impegno di questi giorni. Avete sentito? Io il viaggio che sto facendo con Tommy lo racconto attraverso un podcast, una forma abbastanza nuova per me. Io sono abituato a parlare in diretta alla radio, ma mi piace misurarmi anche in questa sorta di backstage, di racconto continuo, di presa diretta rispetto a tutto quello che facciamo. Tommy che fa i vocalizzi con il fonico Nicola Gualandris e alla fine fanno rutto per chiudere il podcast, con Paolo Aralla che gli insegna le parolacce. Tommy già non parla, già autistico, dice poche parole, dice: papà, mi sono rotto il cazzo. Com'è possibile? Non hai mai detto una cosa del genere? Perché gliel'hanno insegnato gli infami della troupe. Ecco, detto questo, oggi torniamo a raccontare i vostri oggetti. C'è una sfida più grande al momento in cui temono la peste del decennio, parlare degli oggetti. Gente pensa che il coronavirus si appoggia ai gatti, ai cani e agli oggetti. Noi parliamo degli oggetti, oggetti che hanno sfidato la storia, hanno sfidato non so quante pestilenze, quante guerre, quanti bombardamenti, quante crisi familiari, e ne parliamo. Parliamo proprio della loro storia. Abbiamo un ascoltatore, ricordo il telefono, 800240024, questa trasmissione in diretta, partecipate. Pasquale, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno. Cosa avrebbe da proporci lei, Pasquale? Senta, io ho un libro di Juan Perón. Di Juan Perón, sì. La forza è il derecho de las bestias, sì, ma con il suo autografo. Autografato da Perón? Sì. Come l'è arrivato a casa, scusi? Senta, io ci devo prima pensare perché non mi ricordo, ce l'ho da tantissimi anni. C'è questo libro apparso a casa con la firma di Perón, lei non ricorda quando è arrivato. Vabbè, ci sta. No. E è sicuro che la firma sia Perón? Cioè, che gli assicura se è quella vera? Sì. No, io penso che è suo, perché viene sicuramente da un mio compaesano emigrato in Argentina. Oh. E loro erano tutti tifosi di Juan Perón. Certo, sì. Poi si cambia. E quindi gliel'ha mandato il suo parente emigrato in Argentina? Ci tiene... No, io non me l'ha mandato, io non mi ricordo come l'ho avuto. Vabbè, mica ci è arrivato da solo navigando, qualcuno l'ha spedito. No, da solo no. Comunque lei guardi, cerca di fare un po', faccia aiutare da qualche nipote, da qualcuno che magari in questo momento ha un minimo di lucidità, se riesce a ritrovare le tracce, le origini di questo libro, lei potrebbe intanto fare una foto e mandarcela a... Sì. Mandarcela al sito asta.cervelliribelli.it, la potremmo confrontare, collazionare con altre firme di Juan Perón e vedere se almeno la firma originale è già un passo avanti. Poi la storia che sta dentro questo libro ce la racconterà quando un attimo le torna la memoria. Allora, abbiamo Silvia Agliotti. Silvia Agliotti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Silvia Agliotti ha un oggetto che ho davanti in questo momento, che ci ha mandato la foto. Cos'è? Una copertina con delle frange, non so bene, un tappeto. In realtà è un paramento copristella bucara del Caucaso, utilizzato quindi come copristella. Ah, un bucara originale. Molto... Esatto, esatto. Questo è... Le frangette sono perché in ultima battuta è stato usato per essere appeso. In realtà era un copristella. Si narra, la leggenda narra che fosse appartenuto a un antenato... un cavaliere, quindi in illo tempore. Cioè un antenato suo, diciamo, della sua dinastia. Esatto. Cioè un Agliotti che andava a cammello, sul cammello non si accontentava di una coperta schifosa, prendeva un bucara, che sono fra i tappeti più raffinati, e metteva il bucara sul cammello. Esatto. Così è. Esatto. Era una testa, una sella tempestata di diamanti a questo punto. Sì, sicuramente. Ma eravate molto ricchi di famiglia? Ma abbiamo sicuramente un'origine di famiglia di Valenza, che è la città dell'oro, per cui esattamente così. Quindi gli Agliotti da Valenza, ma dove andava in cammello questo suo parente? Questo antenato andava in cammello, evidentemente in luoghi che non erano sicuramente quelli attuali, ecco, sicuramente non erano quelli attuali. Ma nella storia di famiglia c'è un antenato che viaggiava in Oriente, così, per capire, per fare un po' di storia dietro a questo tappeto? Di fatto nella storia di famiglia ci sono degli antenati che sono stati un po' i pionieri, alcuni nonni sono stati pionieri della storia di Valenza come città dell'oro. Quindi siete fra i fondatori di Valenza. Esatto, questi tra i nonni. E questa, in particolare questo paramento avviene da una casa di Torino, che era la famosa zia Cesarina di Torino, che era veramente una donna speciale, una donna con un cervello ribelle sicuramente, disposta ad elargire patrimoni e doni. Infatti ci sono state tantissime donazioni. La vorrei conoscere io in questi giorni, perché tutto questo lo facciamo poi per riuscire a allestire un centro proprio per cervelli ribelli, quindi zia Cesarina sarebbe caduta come il cacio sui maccheroni. Però arrivano delle opere dalla sua casa, per cui poi questa casa è arrivata alla nostra. E sicuramente quest'altra storia si ricongiunge al fatto che la zia Cesarina aveva come marito un industriale, un industriale che produceva biliardi, per cui quest'altra storia incredibile che con i biliardi barattava le opere d'arte. Sicuramente abbiamo trovato barattava biliardi. Poesia con vizio, ti do un biliardo e tu mi dai un'opera d'arte. Biliardi con opere d'arte, con paramenti e con arredi, abbiamo visto, non so, 8 biliardi in cambio di... Sento una cosa, Silvia Agliotti, mi interessa sapere, ha provato ad annusare questo tappeto? Perché l'odore del cammello è diverso dall'odore è stato lavato, lo stato non ha nessuna, nessun odore di cammello, non c'è un retrogusto. L'ho mandato a lavare sicuramente, adesso si può appendere, appunto diventa un oggetto molto bello per essere appeso anche. Io per dare forza e sostanza a questa storia, su me sarebbe interessante fare l'analisi a quelle persone che osservano e guardano, non so, quelli che hanno studiato la Sacra Sindone, che hanno trovato anche l'incenso del Mar Morto dentro la Sindone, ecco, vedere se c'è qualche pelo di cammello avvalorerebbe comunque la tesi che è stata usata per un cammello. Beh, questo non lo so. Cioè, è come prendere un Rolex per schiacciare le noci, per far capire agli ascoltatori, è la stessa cosa. Si potrebbe provare a valutare. Va bene. Cosa. Mi metterò con la lente. Intanto abbiamo un copristella del Caucaso fatto con un tappeto bucare, esatto. Già una cosa, con una storia dietro. Sentiamo adesso, grazie Silvia Agliotti. Renato, provincia Laterne, ricordo 80024 0024. Renato, cosa c'ha lei da offrirci per quest'anno? Buongiorno. Sì. Io ho qui in casa ormai da una quarantina d'anni più o meno una zampa di elefante svuotata, imbalsamata, per cui è rimasto l'involucro esterno. Cioè c'è lo zampone elefante, sì. Sì, che è in un angolo di casa. Io ci metto dentro alcuni bastoni, cioè, portaombrelli praticamente. Portaombrelli, bastoni. E qual è la storia legata a questa zampa di elefante? La storia, questa deriva da, pare che, cioè, sì, sicuramente è un'eredità di una mia zia, anzi di una zia di mia madre, di una mia prozia. Sì. Il cui marito negli anni 30 era una guida per i safari, sì, tra la Somalia, l'Eritrea, insomma la parte italiana. Quando andava di moda d'Africa, fare i safari, ammazzare gli animali e farsi le foto col trofeo, sì. Esattamente. Questa zampa, la particolarità è che è sempre stato detto direttamente da mia zia, sia a me e anche da mia madre, per cui per interposta persona, che questo elefante fu ucciso da Galeazzo Ciano durante una battuta di caccia intorno al 35-36. Galeazzo Ciano, ricordo, era il marito della figlia del duce Edda, che poi fu ucciso dopo il processo di Verona per tradimento. Sì. Esattamente. Al tempo in cui era in auge, era un bel fighettone e girava vestito da ufficiale. Io sono andato a documentarmi, sì. ma l'ho fatto ma pochi giorni fa, quando ho sentito la vostra trasmissione parlare di questa cosa, dico ma voglio andare a vedere. E ho qui un libro particolare, insomma, l'ho guardato su internet, ho battuto Galeazzo Ciano, eccetera, in Africa, sì. Sono andato a vedere, in effetti lo date torna, no? Perché Galeazzo Ciano pare che fece un tour, il termine passatemelo, intorno al 36-37 in Africa, non c'è scritto ovviamente se fece una battuta di caccia, però la sua presenza in Africa è documentata. Quindi questa povera bestia che camminava a tre zampe, nella migliore delle ipotesi e nella peggiore, credo che non camminasse sì, più a quel punto, avrebbe soltanto la gloria di essere stato ucciso a quello che allora era un personaggio figo del regime, sì, che ha sposato la figlia del duce, poi gli ha portato malissimo, però devo dire che al tempo era un personaggio. E questa, beh, questa diciamo la tradizione orale familiare vi racconta questo particolare. Esattamente. I nostri esperti sono in ascolto, valuteranno subito, ci mandi subito la foto, infatti, di questa cosa qua, con il minimo di documentazione che ha a disposizione, anche soltanto il rendiconto della tradizione orale. In effetti starebbe bene, qua ci arrivano pezzi di tutti i tipi, e anche l'elefante ammazzato da Galeazzo Ciano potrebbe avere in sé una sua stranezza. Ci fermiamo soltanto un istante, tra poco. Melog. Stiamo passando in rassegna i reperti singolari che arrivano dalle case dei nostri ascoltatori, che hanno capito perfettamente quello che noi chiediamo loro. All'inizio c'era stato un momento in cui pensavano che fosse una specie di raccolta di oggetti da rigattiere, ma non era questo. Oggetti che hanno una storia, anche la zampona dell'elefante, che in famiglia si tramanda, fosse stato ucciso in un safari da Galeazzo Ciano, ha una sua tragica gloria. Questo povero elefante ha zoppato e ucciso da Galeazzo Ciano per il gusto di farsi fare la foto con il fucile in mano e la carcassa alle mani ucciso dietro, può avere una sua storia. Non lo guardiamo con simpatia, perché alla sensibilità odierna gli elefanti non si ammazzano nei safari, assolutamente, però è storia che comunque noi possiamo raccontare. Se qualche ascoltatore potesse mai fornirci prove fotografiche di questi safari di Galeazzo Ciano, messo insieme avrebbe maggiore sostanza anche la storia. Sentiamo un'ascoltatrice, Fabrizia, provincia di Firenze, ricordo 800240024. Fabrizia, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei cosa ha da proporci? Dunque, io ho dei gemelli da camicia che Umberto di Savoia ha regalato al mio babbo. E dunque, questi sono d'argento, però tutti smaltati di blu, del blu Savoia, con la corona sopra alla U. Quindi sono bellini. Cioè, Umberto di Savoia sarebbe il re di Maggio, l'ultimo re d'Italia. Esatto, esatto. Quello sì. Che è stato poco tempo. E come mai l'ha regalato? Regalasse... A chi? A suo nonno? No, a mio babbo. Al suo babbo? Sono anzianissima, 82 anni. Ah, vabbè, non sembrerebbe. Perfetto, complimenti. A mio babbo, sì. Anzi, e come mai re Umberto regalò dei gemelli al suo babbo? Appunto, sembra che lui li li regalasse e li facesse sia in oro che in argento. In oro per le persone più importanti. Il mio babbo non era una persona importante, faceva soltanto un servizio, era andato a fare da autista agli agnelli al sestriere d'inverno. Difatti ho anche le fotografie con il principe con un bellissimo cappotto, con un collo di pelliccia. E proprio in quell'occasione è interessante, lo sa, perché noi nella puntata precedente avevamo un autista invece del padre del re Umberto, che se l'era portato in Africa, l'aveva fatto travestire da africano. Perché sentivo la radio. Quindi diciamo il giro degli autisti sempre. È un giro che ci fornisce belle cose. Quindi come mai però il re regalò questi gemelli a suo padre? Probabilmente faceva, sa, da grande regalava queste cose. Cioè andava in giro con le tascate gemelli, come i preti come portano le caramelle quando vanno a benedire le case, e dava le manciate così di gemelli. Vabbè, può esserci. Ci sta pure. Va bene, vediamo, come al solito lei faccia la foto, la mandi al sito asta.cervelliribelli.it, la guarderanno subito gli esperti della casa d'aste cambi che sono in ascolto, li valutano se c'è un precedente che l'ultimo re, il re di maggio, re per pochissimo tempo perché diciamo detronizzato dal referendum che è stato fatto in Italia, però c'erano questi gemelli, li dava d'oro e d'argento, teneva nella tasca destra quelli d'oro per le persone più rappresentative. Se li dava personalmente lui o c'era qualcuno ha detto. O chissà cosa chiedeva in cambio, non si sa. Lasciamo questo alone di mistero e li presenti comunque fotograficamente e li valuteremo. Allora andiamo avanti, abbiamo Ciro Minieri. Ciro Minieri ci ha mandato anche lui un oggetto che ha una storia recente ma singolare, non appartiene a tempi remoti ma a tempi più recenti. Ciro Minieri, buongiorno. Sì, buongiorno. Cioè, allora. La storia è abbastanza singolare, comunque semplice. Tanti anni fa, intorno all'anno 2000, sul volo dell'Italia tra Los Angeles e Roma, ero pilota nel periodo lì. E che anno era, detto anni 2000? Era il 2000, l'anno 2000. E c'era ancora quella linea, insomma, poi la linea fu soppressa e poi in qualche modo è ritornata. E dicevo che io ero stato precedentemente, dato che facevo parte appunto dell'equipaggio di quel volo dello Stato a Los Angeles per un paio di giorni, e avevo comprato sulla Pacific Coast Highway, quella via che in qualche modo congiunge San Diego all'Oregon via San Francisco andando su a nord, insomma, presso uno di quei antiquari americani che in realtà sono negozi di modernariato, no? Che erano tutte delle cose del periodo del rock and roll e giù di lì. Avevo comprato una testa di silicone, una testa vagamente da manichino, no? Diciamo. Ma cosa ci faceva lei? Le è venuto in mente di comprare una testa di silicone? Mi piaceva tantissimo, aveva degli occhi azzurri profondi, no? E poi mi sembrava coerente con una specie di collezione di teste di pietra. Comunque lei, diciamo, già una sua passione singolare nel collezionare oggetti singolari. Ecco. Questa testa di gomma in silicone. Sì. Ma è stata datata questa testa in qualche anno? Guardi, io ho una foto, siede soltanto di nuca, non si vedono gli splendidi occhi azzurri. Sarà fatta meglio. In ogni caso è anni 40 circa. Anni una 40 testa, ma che ci facevano negli anni 40 con le teste di silicone? Lei si è domandato? Perché, ma io penso, guardi, penso che fosse per essere posta in qualche vetrina e sopra metterci un cappello. Ah, forse ecco, poteva essere una testa per un negozio di cappellaio. Sì, probabile, sì. Ecco, quindi lei si tornava in aereo. Tornava in aereo a casa con questa testa di silicone e se l'è portata in cabina, cioè se l'è portata, diciamo, in aereo tranquillamente. Sì, era un bagaglio a mano, un quarantina di centimetri, ottemperavo a quelli che erano i limiti, diciamo, di sicurezza. Però scusi, quando è passato sotto, diciamo, il passaggio obbligato che ti vedono le valigie con i raggi X, gli hanno visto una testa dentro, gli hanno visto una testa dentro, gli hanno aperto la valigia. Hanno aperto la valigia, hanno sorriso. Vabbè, uno può portare una testa dietro. Sì, sì, modo, un cacciatore di testa. Io, da europeo, apprezzassi l'antiquariato loro, per così dire. Modernariato. Quindi in aereo c'ha questa testa di gomma, penso tirata fuori dal bagaglio, se l'era messa vicino. Diciamo che era impacchettata e comunque visibile. Okay? Poi si capiva che era una testa. Si capiva che era una testa. Stavo trascinando, a un certo punto comincia l'imbarco, in cabina di pilotaggio c'è comunque un certo andirivieni, perché comunque sai di pieno di carico, il controllo del carburante, tante belle cose, e a un certo punto sale Tony Curtis. Tony Curtis. Che insomma, io l'ho visto, era un po' invecchiato, era sempre un bell'uomo alto, però col parrucchino, insomma, era tra l'altro. Che anno era, il 2000? Anno 2000? Anno 2000. Guardi, lui è morto nel 2010 a 85 anni, quindi aveva 75 anni in quel periodo. 75 anni, perfetto. Era ripeto, comunque aveva questa una certa personalità, no? Nell'incedere. Beh, era sempre Tony Curtis, che discorso. Era sempre quello di a qualcuno piace caldo, oppure attenti a quei due, giù di lì. Io, e quindi? Poi con un certo... Sì, istintivamente mi sono avvicinato a lui, visto che potevo, stavo lì a un certo punto, poi lo guardo e dico... Tony Curtis, you are my wife. Non so mai come si dice mito in quel modo, sì, all'inglese, però volevo in qualche modo sannarlo, no? E lui ha sorriso, ah sì sì, che bella. Vabbè, insomma, a un certo punto tutto contento, io dicevo, guarda, c'è Tony Curtis, ah, tutti con te. L'ha chiesto un autografo, perché stiamo chiudendo, andiamo al punto. Sì, le ho chiesto autografo e a un certo punto lui nel cercare questo benedetto penna, si rivolge alla moglie. La moglie era la moglie di quel periodo, sì. Una ragazza bellissima, bionda, alta e con una certa differenza, un delta di età notevole. Quindi, avanti al punto, perché stiamo chiudendo. E lei gli porge il suo rossetto. Sì. A un certo punto il rossetto viene utilizzato per fare la dedica a me, e mettersi la firma di Tony Curtis sul capoccione. E quindi lei mirabilmente mette all'asta questo capoccione di gomma, che già in sé è inquietante, sembra un decapitato, però firmato da Tony Curtis con il rossetto della moglie. Mi sembra un mélange fantastico. Più ribelle, più folle di così non c'è. Testone di gomma firmato a Tony Curtis andrà all'asta. Alla prossima.